con Simone Totola di Officine Ubu per presentare il film Cyrano Mon Amour al cinema da giovedì 18 aprile 2019. Simone, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti, ciao. Raccontacelo brevemente. Siamo a Parigi alla fine dell'Ottocento e Edmond Rostand è un giovane drammaturgo che ha un talento geniale nel scrivere delle pièce teatrali, ma sfortunatamente tutto quello che lui ha scritto si è poi rivelato un flop. Grazie però alla sua bontà d'animo, al suo effettivo talento, la sua cara amica Sarah Bernhardt, una delle più grandi attrici teatrali di quel periodo, diciamo, lo prende sotto la sua ala e lo fa incontrare con Constant Conclin, che è un altro grande attore che visse in quel periodo. Constant Conclin è un attore che in quel momento è sommerso dai debiti e sta cercando una nuova pièce nella quale recitare per riscattare un po' la sua immagine. E quindi si offre di recitare nel prossimo lavoro di Edmond Rostand. Qual è il problema? Che Edmond però non ha ancora detto nulla di nuovo. E Constant Conclin vuole andare in scena tra sole 3 settimane e l'unica cosa che il povero Edmond conosce è il titolo della sua prossima commedia, che sarà appunto Cyrano de Bergerac. E quindi, nonostante tutte le esigenze dei produttori, caprici degli attori, delle attrici, i problemi amorosi del suo amico e con la moglie, Edmond dovrà trovare l'ispirazione e cercare di chiudere la commedia nel più breve tempo possibile prima della messa in scena. Quali sono gli elementi che hai apprezzato di questo lavoro? Sicuramente ci ha colpito la velocità di come viene raccontata questa incredibile storia. Infatti il film ha un ritmo che è veramente impressionante, è travolgente, le battute si susseguono con una velocità incredibile, non c'è mai un tempo morto, gli attori sono poi bravissimi nel loro lavoro e soprattutto c'è un grandissimo lavoro appunto per quanto riguarda le tempistiche, il ritmo che il regista ha dato al film, perché infatti il film è stato tratto da una pièce teatrale che ha sbancato i teatri della Francia negli ultimi 2 anni e infatti da questo si vede proprio anche il lavoro che c'è nella scrittura dei dialoghi e nelle sequenze che si susseguono. E poi comunque in fondo c'è Cyrano de Bergerac, che è una delle più grandi storie d'amore mai raccontate, che ovviamente ha il suo peso, ecco. Ha delle fondamenta reali romanzate? Sì, indubbiamente la figura di Edmond Rostand appunto è esistita veramente, così come quella di Sarah Bernhardt e di Constant Conclin. Quindi il film parte da una situazione appunto reale. Poi ovviamente c'è una parte romanzata, perché il film non ha poi quell'intento di biopic, ma è comunque una commedia che parte da un presupposto, diciamo, reale e poi si concede qualche piccola incenza poetica, se vogliamo definirla così. All'estero com'è andato finora? Il film è stato un enorme successo in Francia, è uscito a gennaio, ha totalizzato quasi 500.000 entrate, quindi veramente un risultato straordinario che si è poi unito al successo della pièce che lo stesso regista ha scritto e portato in teatri di tutta Francia. È stato accolto benissimo sia dal pubblico che dalla stampa, che sono rimasti estasiati da questo film che è veramente delizioso e speriamo che anche l'italiano possa accoglierlo con lo stesso calore. Di questo regista sappiamo altro? Questo in realtà è il suo film di debutto, perché Ok. appunto lui è un drammaturgo, quindi lui ha lavorato principalmente per il teatro e appunto la sua più famosa e che ha avuto più successo è proprio questa, il cui titolo originale era Edmond. E per la prima volta lui si cimenta con il cinema e porta sul grande schermo la trasposizione della sua pièce, quindi è già stato definito uno degli astri nascenti del cinema francese, perché comunque il suo film di debutto è stato veramente un caso cinematografico in patria. Che tipo di uscita sarà? Il film uscirà appunto giovedì 18 aprile in circa 70 cinema in tutta Italia. Ci concentreremo nelle città principali, poi appunto ci allargheremo sempre di più anche a seconda del pubblico di come lo accoglierà, ecco. Però ecco, stiamo cercando proprio di raggiungere il più vasto pubblico possibile, perché è un film che può mettere veramente d'accordo tutti quanti, dai più grandi ai più piccoli, sia chi è appassionato di teatro, ma anche chi non ne ha proprio tutta questa grande dimestichezza. Cyrano Mon Amour al cinema da giovedì 18 aprile, distribuito da Officine Ubu. Un grazie, un saluto, a risentirci presto. Grazie a voi, ciao, grazie mille, ciao.